Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di sensori stasera. Sappiamo che la costruzione delle città intelligenti passa anche per la disseminazione di sensori per tutta la città, sensori in grado di restituire quanto nella città accade in tempo reale, come si muove il traffico per esempio, oppure, ed è di questo che ci occuperemo stasera, sensori che hanno il compito di monitorare le variabili ambientali. A questo proposito la nostra Chiara Albicocco ha incontrato Marco Brini, che è fondatore di Minteos. Minteos è una startup nata all'inizio del 2006 all'interno dell'incubatore del Politecnico di Torino ed è specializzata in sensori wireless. La loro missione, dicono, è far parlare gli oggetti. Sentiamo. L'obiettivo della tecnologia che abbiamo sviluppato è quello di dare la parola agli oggetti. Sembra che gli oggetti abbiano poco da dirci, in realtà possono aiutarci ascoltandoli a generare efficienza, a ridurre i rischi. Facciamo esempi pratici, sì. Ad esempio l'aria, e all'interno dell'aria ci sono tanti gas invisibili che costituiscono aria buona oppure aria inquinata. Allora avere dei traduttori dell'aria che interpretano l'aria e ce la comunicano direttamente sul web in tempo reale è molto interessante. Se poi questi oggetti sono piccoli, senza fili e poco costosi, allora si aprono degli scenari quali quelli di una monitoraggio pervasivo. Quindi possiamo pensarli un po' come queste stazioni climatiche che ci sono nelle nostre città, e sono poche perché sono grandi e costose, in miniatura, portatili se vogliamo, comunque applicabili in maniera più capillare per avere un monitoraggio dell'aria in tantissimi posti e non soltanto in quegli hotspot che sono adesso nelle nostre città. Esatto, è uno strumento integrativo per dare delle informazioni aggiuntive. Quelle che ci sono oggi sono estremamente precise, hanno l'unico limite di essere limitate nello spazio. Magari a 100, 200, 300 metri dalla centralina i valori sono diversi e le persone però respirano l'aria in cui si trovano. Un progetto molto interessante che voi avete già sviluppato e che nelle nostre Smart City potrebbe trovare assolutamente applicazione è ad Atene, per cui avete studiato dei sensori che monitorino la fognatura. Sì, la fognatura tra gli oggetti che sono disponibili è sicuramente quello meno poetico e attrattivo, però è comunque un oggetto complesso perché è fatto di tubature, è fatto di canalizzazioni, è fatto di pompe ed è estremamente costoso. Sono delle specie di autostrade sotterranee dove passano troppo tutto ciò che va nella fognatura e mantenerle e operare ha dei costi importanti, quindi riuscire ad avere delle informazioni in tempo reale su quello che succede, in questo caso sui flussi che passano, una specie di traffico che passa in queste autostrade sotterranee, aiuta a ridurre notevolmente i costi, a fare efficienza, a migliorare la manutenzione. Quindi parliamo di risparmio dall'energia a denaro. Ecco, lei parla di informazioni che il flusso fognario ci dà. Facendo un pochino più il dettaglio, che cosa significa? Che tipo di parametri registrate? Sono, a seconda del tipo di applicazione, ce ne sono vari. Nel caso delle fognature noi misuriamo i livelli, dai livelli possiamo ricavare la portata e quindi il flusso. L'immagine che possiamo dare è un po' paragonare la rete fognaria a quella stradale, per cui noi capiamo in quale punto passano macchine, se ne passano, in quale ore del giorno ne passano di più, e a quel punto ovviamente ottimizzare i servizi e il mantenimento. È corretto, è proprio così. Okay. In realtà mi preme dire che il bello di questa tecnologia è che è una specie di traduttore universale di tutti quanti gli oggetti. Quindi in questo caso noi abbiamo avuto la provincia di Trento che è stata innovatrice in questo senso per quello che riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria. Sì. La prima in Italia che sposa un approccio di questo tipo, tra le prime nel mondo. E il discorso della fognatura che poi è stato esteso anche a una porzione della provincia di Bergamo. Ma ci sono tante altre possibili applicazioni perché è pieno di oggetti intorno a noi. Infatti, quindi, come citava prima, il monitoraggio strutturale, sì, sulle infrastrutture che possono essere ponti, gallerie oppure dighe. Noi abbiamo realizzato 9 dighe in Italia dove lì misuriamo i micromovimenti dei muri. piuttosto che il monitoraggio di quello che succede nelle vicinanze dei monumenti per preservarli. E così via. Ecco, infatti dicevamo prima, ad esempio, per il patrimonio culturale, questo potrebbe essere molto interessante in quei casi in cui le strutture sono un po' più fatiscenti o comunque c'è un progetto di recupero. Ecco, in quel caso andare a monitorare se c'è, ad esempio, la possibilità di un crollo. Lì voi riuscite a capirlo abbastanza in tempo reale. Beh, in quel caso di nuovo abbiamo dei sensori che sono dei traduttori del linguaggio dei muri, in quel caso parliamo di micromovimenti. Possono essere microinclinazioni, certo, oppure dei micromovimenti nelle fessure, e lì di nuovo con estrema precisione si portano questi dati fruibili. Tutto va a finire su cloud. Come funziona la comunicazione? Il muro, la fogna, come ci comunica? Come ci spedisce le informazioni? Il primo elemento sono questi trasduttori, che sono i sensori, che sono i traduttori dal linguaggio dell'oggetto al linguaggio digitale. Dopodiché la nostra tecnologia, che è a bassissimo consumo, con questi oggetti che chiamiamo sentinelle, che hanno a bordo il sensore, sono oggetti senza fili, come i cellulari degli oggetti, possono essere disposti nelle vicinanze dell'oggetto e durano fino a 10 anni. Questi sono, le chiamiamo sentinelle perché costantemente, 24 ore al giorno, tengono sotto controllo l'oggetto di riferimento. Dopodiché lo comunicano senza fili, su un protocollo radiofrequenza, a distanze fino a qualche chilometro, a dei concentratori, li chiamiamo gateway, ma sono come i radiobase dei cellulari. Ok, viaggiano su onde radio. Viaggiano su onde radio, dopo tutto viene girato su cloud, quindi chiunque da internet, da qualunque parte del mondo, può visionare quello che sta succedendo. Bene, anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani, sempre qui, sempre su Radio 24. Buona serata.